Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il saluto vi viene anche da Riccardo Poli, che è in redazione con me, da Mauro De Angeli, che darà ritmo e musica alla puntata di quest'oggi. Le coordinate per interagire con noi le sapete: 349-238-6666 se avete domande o suggerimenti condensati in 160 caratteri SMS, oppure la mail nessunluogo@radio24.it e poi la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. L'avete sentito anche dal GR, va avanti la battaglia per Tripoli, allora noi andiamo subito nella capitale libica. First of all, I'm here to refute all the rumors and reports. NATO used its most sophisticated technology to block all our communications. They sent text messages to the Libyan people. They interrupted our TV broadcasts. They waged an electronic media war against us to scare our people. They sent gangs and armed groups to Tripoli by sea and civilian vehicles to create chaos. You have seen how the Libyan people rose up yesterday and today and broke the back of the rebels and the rats and the gangs. I'm going on a tour of Tripoli now and will visit all the hotspots. You will see, everything is normal. E così Saif al-Islam, che era stato dato per arrestato con le manette ai polsi da parte dei ribelli, insomma, si è presentato sorridente in mezzo ai suoi ieri notte a Tripoli, e Al Jazeera era lì a riprendere questa scena. Abbiamo rotto la schiena ai ribelli, così Saif al-Islam ha detto. E insomma, questa sua dichiarazione, questa sua apparizione ha raggelato i focosi animi dei ribelli, che sostenevano appunto di averlo arrestato. Il console italiano a Bengasi, Guido De Santis, al microfono di René Zerbini. Purtroppo il risveglio è un po' amaro, perché si è diffusa la notizia, si sono viste le immagini di Saif al-Islam libero, no? Che sembrano autentiche, e che gira per Tripoli con dei giornalisti. L'annuncio dell'arresto di Saif al-Islam è stato quello che ha scatenato tutto il festeggiamento dell'altra sera, e poi ha dato un'accelerata anche all'avanzata in città. Quindi era un momento simbolico di questa lotta, ed è bene capire meglio cosa è successo veramente prima di dare conclusione. E mentre vi parlo, a Tripoli in furia la battaglia, la città è senza corrente da 12 ore, ci sono anche grosse difficoltà di comunicazione, i jet della NATO stanno sorvolando la capitale mentre risuonano colpi di artiglieria attorno al compound di Gheddafi, e qua c'è un giallo nel giallo, perché secondo le agenzie e secondo BBC e Al Jazeera, che sono i due principali network che stanno seguendo da vicino, da vicinissimo, da dentro la lunga battaglia di Tripoli, insomma, due le tesi. La prima, Gheddafi si troverebbe appunto in questo bunker. La seconda, invece, riferita dalla BBC, da Rupert Wingfield, riferisce di voci contrastanti, secondo le quali invece il Rais avrebbe un nascondiglio nei sotterranei dell'hotel Rixos, che è l'hotel dove alloggiano parecchi dei giornalisti stranieri che stanno seguendo la crisi e che odono distintamente colpi anche di artiglieria pesante. L'accelerazione delle operazioni militari, come siamo arrivati a questo punto, è forse, quasi sicuramente, l'epilogo del lungo regime di Gheddafi, ma questa stretta finale che si sta compiendo in queste ore. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo parlato del ruolo delle tribù berbere dell'Ovest, ma come oggi ricorda l'Independent, decisamente un ruolo è stato giocato anche da ex agenti speciali occidentali, che hanno supportato la front line, la linea del fronte degli insorti che avanzava da Tobruk, da Bengasi, fino poi a Sirte, a Misurata e infine fino a Tripoli. L'Independent ricorda anche un episodio divertente, se non fossimo, come dire, in zona di guerra: l'arresto ai primi di marzo di 7 agenti della SAS, dei corpi speciali inglesi, che erano andati a Bengasi per prendere contatti. Ma poi sempre questo lungo articolo sull'Independent ricorda come ex agenti speciali siano stati visti a più riprese tra le linee dei ribelli per addestrare, dare informazioni e dare quindi un supporto a questa avanzata ribelle. Andrea Nativi, direttore della rivista Italiana Difesa, buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Quanto questo ruolo giocato da ex agenti segreti, ex ufficiali delle forze speciali, ha dato una mano, ha dato impulso alla stretta finale su Tripoli? Beh, è stato molto importante il supporto di ex, ma anche direi di non ex, perché hanno fatto sì che le forze di terra, questa banda Brancaleone veramente dei ribelli del CNT, riuscisse in qualche modo a sfruttare il dominio dell'area saldamente in mano alla NATO, cosa che non era avvenuta nei primi mesi. Senza di loro non ci sarebbero riusciti né a coordinarsi né a sfruttare quello che gli arrivava, e poi gli hanno fornito anche un supporto in termini di comando e controllo, di comunicazioni, cosa essenziale, di logistica, e gli hanno anche fornito un po' di armi e gli hanno insegnato come usarle, a come operare, perché prima veramente c'era una massa di velleitari combattenti che poi o finiva in trappole o alla primo setback tornavano indietro. Quindi hanno avuto un ruolo significativo, un po' come hanno avuto anche in Afghanistan nel 2001, direi. E hai citato, insomma, questa armata Brancaleone, che era appunto questo questo esercito ribelle che, come dire, con tanta buona volontà ma con scarse conoscenze militari, come abbiamo potuto verificare anche noi stessi, insomma, marzo e aprile, seguendo l'avanzata del fronte, insomma, sono riusciti in qualche mese comunque a darsi come un tono e un'efficacia da esercito. Questa efficacia da esercito, Andrea, poi ti lasciamo al tuo lavoro, sarà la chiave per prendere Tripoli. Riusciranno in tempi brevi? In realtà le notizie sono molto confuse, si parla di guerriglia, e quindi quando si parla di guerriglia urbana, come dire, tutte le strategie in qualche modo vengono meno, no? Beh, direi che se fosse veramente una battaglia urbana come quella che si paventava, sarebbe stato un disastro, perché le forze dei ribelli non sono né addestrate né preparate né equipaggiate per fare un'operazione come quella americana a Baghdad nel 2003, per intenderci. Però consideriamo che anche questa è una guerra strana, perché la combatte pochissima gente, cioè tu avrai anche visto che le formazioni dei ribelli, anche in termini proprio di semplici numeri, sono poca cosa, e sì, lo stesso vale anche per quelli dei lealisti. Quindi è una guerra che, combattuta in un centro urbano, si combatte in nodi, in aree, in zone specifiche, ma non coinvolge l'intera città, semplicemente perché non ci sono abbastanza combattenti per farlo. Sul fatto che riescano rapidamente a risolvere i problemi relativi alle sacche di resistenza, dipende da cosa si intende sul rapidamente. Io direi che qualche giorno ci vuole, anche perché poi non è detto che tutti vogliano immolarsi e combattere fino all'ultimo nel bunker, e poi magari si prendono le loro armi e se ne vanno in giro. Ricordiamoci sempre Baghdad 2003, cosa è successo: molti hanno smesso di combattere subito e hanno ripreso le armi dopo, e questo è il grosso problema del dopoguerra, senza contare che comunque ci sono altre zone dove ci sono lealisti di Gheddafi. Certo, fra l'altro Sirte su tutte, che è la grande roccaforte di Gheddafi, da cui una colonna si è mossa nelle ore scorse per cercare di raggiungere Tripoli, ma è stata intercettata dai ribelli. Sì, ma queste sono mosse disperate, nel senso che se veramente tentassero di muovere le forze motocorazzate consistenti, vengono fatte a pezzi dall'aria, cioè non tanto dai ribelli ma dall'aria. Lì il fattore decisivo, quello che ha distrutto le forze convenzionali pesanti di Gheddafi, sono stati ovviamente gli aerei e gli elicotteri della NATO. E su tutta questa vicenda, su questa battaglia finale di Tripoli, aleggia, come ancora una volta tu hai ricordato, lo spettro di Baghdad e lo spettro dell'Iraq. Grazie Andrea Nativi per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a te, ciao. La guerra in Libia, la rivoluzione in Tunisia, più in generale i grandi movimenti popolari del Maghreb che dalla primavera scorsa stanno infiammando il nord dell'Africa, nascondono un'importante retroscena, in realtà più retroscena. Uno, quello dell'energia, l'abbiamo in parte toccato ieri. Poi c'è quello dei flussi e delle dinamiche delle migrazioni dall'Africa verso l'Europa. Tema delicato, di facilissima strumentalizzazione. Allora cerchiamo di capire meglio come le rivolte nel mondo arabo stanno impattando sui flussi e sulle rotte migratorie. E cerchiamo di partire dai fatti e dai numeri per quanto è possibile. Intanto buongiorno a Flavio Di Giacomo, responsabile della comunicazione dell'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Di Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Facciamo, Flavio, una prima fotografia di ciò che è accaduto con la guerra libica. Che cosa è accaduto all'enorme massa di migranti che dalla Libia transitavano? Beh, si stimava che in Libia abitassero circa 1,5 milioni di migranti. Molti di questi migranti sono scappati dal paese. Noi abbiamo calcolato che circa 660.000 sono le persone che hanno lasciato la Libia dall'inizio della crisi. Noi come OIM siamo presenti in tutti i paesi confinanti con la Libia e abbiamo anche cercato di evacuare il più alto numero di persone e far tornare nei paesi d'origine le persone che scappavano dal paese. 660.000 persone, quindi 285.000 circa in Tunisia, 200.000 in Egitto, 77.000 in Niger, e anche una parte che è arrivata a Lampedusa, però via mare, quindi seguendo delle modalità più pericolose sicuramente, circa 26.000 dall'inizio della crisi. 26.000 a Lampedusa è un numero, diciamo, paragonabile per dimensioni a quello del 2008, che era l'ultimo anno dei grandi sbarchi, prima degli accordi bilaterali fra Berlusconi e Gheddafi, e quindi prima che in qualche modo quella rotta del mare fosse interrotta. Esatto, nel 2008 è stato registrato il più alto numero di arrivi a Lampedusa, era di circa 31.000 persone, in tutti i 12 mesi del 2008 chiaramente. Invece quest'anno 26.000 dalla Libia, perché attenzione, poi c'è stato anche il flusso precedente, quello della Tunisia, con 25.000 arrivi circa. Ecco, anche la Tunisia, Di Giacomo, ha impattato, la rivolta tunisina ha impattato chiaramente sul flusso dei migranti. Su questa rotta che cosa possiamo dire? Beh sì, appunto, noi abbiamo visto l'apertura di due diversi flussi quest'anno a Lampedusa. A febbraio hanno cominciato appunto i tunisini, dal 12 febbraio in poi sono arrivati fino a fine marzo soprattutto, direi, anche se alcuni migranti tunisini stanno arrivando anche adesso, però la stragrande maggioranza è arrivata nei primi mesi dell'anno, fino appunto a raggiungere i 25.000 persone. Sono tutti questi ragazzi tunisini che, in mancanza di controlli al confine della Tunisia, sono riusciti ad arrivare in Lampedusa, in Italia, perché poi la maggior parte voleva andare in Francia, in Olanda, in Germania, come si è stato già ampiamente detto nei mesi scorsi. Comunque è stato un flusso importante che si è aperto proprio a seguito della rivoluzione in Tunisia. Flusso diverso da quello che si è aperto dalla Libia, dove c'è invece gente che scappa da una situazione di guerra. 1,5 milioni di migranti nel paese, in Libia, 659.660.000 persone che hanno lasciato questo paese, la maggior parte di loro verso Tunisia e Egitto, chiaramente confinanti. In Tunisia quasi 285.000, insomma un numero altissimo se paragonato agli sbarchi appunto a Lampedusa. La Libia è sempre stato un grandissimo buco nero, un grandissimo punto di domanda. Fino alla rivolta del 17 febbraio pochissime informazioni uscivano dal paese, molto poco si sapeva su quella che era la condizione di questo 1,5 milioni di migranti, molti dei quali venivano da paesi subsahariani, il Chad, il Ghana, la Nigeria, e molti di loro si erano in qualche modo costruiti una vita. Buongiorno anche Gabriele Del Grande, giornalista, scrittore e autore del blog Fortress Europe. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Chi sono questo 1,5 milioni di migranti subsahariani che hanno stazionato in Libia per così tanto tempo? Beh, erano lavoratori fondamentalmente, erano la manodopera che il boom economico della Libia post embargo richiedeva. C'è un paese di 6 milioni di abitanti dove appunto 1,5 milioni di lavoratori da paesi confinanti erano arrivati negli ultimi anni, in parte dopo che Gheddafi aveva aperto completamente le frontiere all'Africa invitando i fratelli africani a venire in Libia a lavorare. E prima di firmare i respingimenti con l'Italia, evidentemente, e dall'altro erano appunto assorbiti molto, molto bene dal boom economico. La Libia era un paese appunto che stava reinvestendo tutti quanti i proventi del petrolio, Tripoli era un cantiere a cielo aperto, la stessa Bengasi era un cantiere a cielo aperto, e in quei cantieri, nelle parti nuove delle città, nei grattacieli che nascevano, nelle autostrade, appunto lavoravano sudanesi, ciadiani, ghanesi, nigeriani, che sono poi le persone che stanno arrivando qua in Italia negli ultimi mesi. C'è gente che all'Europa non ha mai pensato, questo è sempre stato il grande equivoco, cioè quel 1,5 milioni erano in Libia non in attesa di passare il mare, ma perché lì finiva il loro percorso migratorio, perché lì potevano guadagnarsi da vivere con salari molto più alti che non nei loro paesi. Ecco perché una delle dinamiche che va spiegata, che spesso viene mistificata soggiacendo a questa logica, a questa grande mitologia dell'emergenza, per cui se ci sono 26.000 sbarchi a Lampedusa si urla all'emergenza, che per carità è giustissimo, una piccola isola diventa un po' l'unico punto di approdo per i migranti, ma se consideriamo che in Tunisia ne sono arrivati 285.000 e l'accoglienza da parte dell'organizzazione tunisina è stata incredibilmente efficace. Dicevo, la questione immigrazione è così facilmente strumentalizzabile, cerchiamo di mettere dei punti fermi. Non tutti i migranti subsahariani poi vogliono arrivare in Europa, come giustamente diceva Gabriele Del Grande. Esiste, è vero, un sogno europeo, ma il Maghreb nel suo complesso è da alcuni anni sicuramente un paese di destinazione, cioè dove molti africani neri vanno perché c'è lavoro e perché si riesce a costruire una vita. Flavio Di Giacomo, su questo punto. Sì, appunto, noi a Lampedusa quest'anno vediamo un flusso veramente diverso da quello degli anni scorsi, nel senso che ci sono coloro per cui effettivamente la Libia era un paese di transito e ci sono coloro che invece per cui la Libia era un paese di destinazione, quindi adesso si ritrovano, che sono arrivati perché insomma costretti dalla situazione sono arrivati in Italia, ma loro vivevano magari da 10-20 anni o se non di più in Libia, quindi sono persone che sono sradicate e che rappresentano una novità per i flussi migratori, chiaramente, e sono persone che quindi tendenzialmente non hanno intenzione di venire in Italia. Nessun luogo è lontano. The southeastern part of Tripoli. Clearly these are in government hands. Quella che sentite è la corrispondenza dell'inviato della BBC, che questa notte si è avventurato tra le strade di Tripoli per valutare la situazione, ma proprio in questo istante Al-Arabiya riferisce di esplosione all'interno del bunker di Gheddafi proprio a Tripoli, nonché di jet NATO che starebbero sorvolando appunto lo stesso bunker. Stiamo seguendo l'evoluzione di questa battaglia finale per Tripoli, ve ne daremo conto da qui alle 14, gentili ascoltatori, ma adesso torniamo a quello che è il nostro focus di quest'oggi, cioè come la battaglia per la Libia e come le rivoluzioni del Maghreb stanno impattando nei flussi migratori. Siamo con Flavio Di Giacomo, responsabile di comunicazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, con Gabriele Grande, giornalista e scrittore. Ho accennato all'inizio della trasmissione di quanto l'immigrazione sia un tema facilmente strumentalizzabile. Stavamo cercando di demolire un po' di quelli che sono i luoghi comuni, le grandi mistificazioni su questo. Da un lato appunto questo gridare continuo all'allarme, quando comparando i numeri di Lampedusa con quelli della Tunisia ad esempio non c'è paragone, senza sottovalutare assolutamente quello che comunque è un'emergenza. Un'altra delle grandi mistificazioni sul tema dell'immigrazione è il pensare che i migranti arrivino dal mare e arrivino da Lampedusa, quando non è esattamente così. Flavio Di Giacomo, su questo. Sì, esattamente questo. Si stima che gli arrivi a Lampedusa e gli arrivi a mare in Italia siano sempre stati intorno al 15-20% del totale dell'arrivo di migranti irregolari nel paese. La maggior parte delle persone che arrivano irregolarmente in Italia sono i cosiddetti overstayers, ossia persone che arrivano in Italia via terra o via aria e con un visto che poi lasciano scadere e restano sul territorio. Questa è la stragrande maggioranza delle persone che insomma restano irregolarmente sul territorio. Invece le persone che arrivano via mare sono veramente una parte residuale dell'immigrazione irregolare. Gabriele Del Grande, aiutami a rispondere a un ascoltatore che al 349-238-6666 ci chiede: se in Tunisia c'è lavoro, perché 25.000 giovani tunisini hanno tentato di entrare in Italia negli scorsi mesi? Sulla Tunisia c'è da dire o da puntualizzare alcune cose a proposito di stereotipi, perché è una situazione completamente diversa da quella libica. Mentre dalla Libia si fugge dalla guerra, quindi dal fuoco di Gheddafi, dei ribelli e della NATO, dalla Tunisia invece si è partiti inseguendo quello che è stato un sogno per anni. E se volete, la mia analisi della Tunisia è che sull'onda diciamo dell'ubriachezza di libertà in un paese dove dopo la caduta del regime ai ragazzi sembrava che tutto fosse possibile, appunto 25.000 ragazzi si sono presi diciamo con la forza, passando senza documento una frontiera, del proprio diritto di viaggiare liberamente nel mondo. Cioè i ragazzi che sono venuti in Italia sono gli stessi ragazzi che hanno fatto le manifestazioni contro il regime, sono ragazzi che non sono scappati dalla guerra o dalle bombe, ma al contrario si sono ripresi il diritto di viaggiare, di spostarsi liberamente nel mondo. Gente che aveva i familiari in Francia piuttosto che in Italia, che non capiva come mai le nostre ambasciate non gli dessero dei visti per venire di qua. La rivoluzione gli ha insegnato che per i propri diritti ci si può mobilitare, si può lottare contro ciò che non si ritiene giusto. Lo hanno fatto di fatto passando la frontiera. Ricordiamoci che all'epoca di Ben Ali, chi saliva sulle barche per Lampedusa veniva arrestato, si faceva 6 mesi di carcere. Finito il regime, finita la dittatura, sull'onda di quella appunto ubriachezza veramente di libertà, tanti ragazzi hanno provato a partire. Di nuovo anche lì la cosa poi finalmente si è esaurita, perché non è che 10 milioni di tunisini sognano l'Italia o la Francia, ne sono arrivati 25.000 e ormai gli arrivi dalla Tunisia veramente sono praticamente esauriti. Al contrario, a proposito di stereotipi, tanti ragazzi stanno tornando, cioè ogni giorno da Genova e da Palermo sui traghetti per Tunisi tanti ragazzi, centinaia alla settimana, ritornano in Tunisia perché hanno scoperto che effettivamente l'Europa non era quel paradiso che si pensava che fosse. Questo rompe un altro stereotipo, no? Cioè l'idea dell'invasione, l'idea che una volta arrivati qua le persone rimangono qui a qualsiasi condizione. Non è così. E in questo gioco, in questa dinamica in cui si rincorre molte volte una componente di sogno, no? del viaggio, della migrazione, l'aventure, come dicono molti subsahariani francofoni, loro partono all'avventura per arrivare in Europa, insomma realtà e finzione in qualche modo si mischiano. C'è stata una componente in cui, come dire, la realtà, ma anche il feticcio della realtà, la mistificazione si è confusa in maniera tragica, è stato proprio in Libia. Perché a un certo punto, quando le forze ribelli hanno tastato con mano che tra le file di Gheddafi c'erano parecchi mercenari ciadiani e nigerini, e allora è accaduta una cosa tremenda, cioè è partita la caccia al nero. Su questo, Gabriele? Sì, ci sono, iniziano voci, poi sono arrivati anche i video girati tranquillamente con il cellulare dai ragazzi appunto del fronte della ribellione, di ragazzi uccisi, apparentemente non certo mercenari ma civili. La comunità colpa era quella di avere una pelle nera, di essersi trovati nel momento sbagliato, al posto sbagliato. Io stesso una volta a Jdabia, vicino a Bengasi, ho assistito ad una scena che per poco non si è trasformata nel linciaggio di quattro sudanesi trovati appunto in macchina mentre se ne andavano dalla città da una folla di libici, e la città era appena stata liberata dai miliziani di Gheddafi e li stavano per uccidere, se non che a un certo punto un libico li ha riconosciuti come i propri vicini di casa, e quindi la cosa è finita lì. E questo è un altro motivo che spinge chiaramente le persone a partire, a scappare appunto, ripeto, sia dal fuoco di Gheddafi che da quello dei ribelli che da quello della NATO. C'è anche su questo da aggiungere un particolare: non tutte le persone che sono arrivate in Italia sono sfuggite dalla guerra, ma alcuni sono stati deportati nel vero senso della parola. Noi abbiamo raccolto molte testimonianze con Fortress Europe di persone rastrellate nelle proprie abitazioni, casa per casa, porta per porta, caricati con la forza sotto la minaccia di un Kalashnikov sui pescherecci, poi diretti a Lampedusa. Per cui anche questo elemento va tenuto in considerazione, ovvero degli sbarchi organizzati dal regime ed usati come arma di ritorsione contro l'Italia, che ha dato le basi alla NATO per le operazioni militari. Fra l'altro questa è una vecchia storia, perché già quando Gheddafi era al potere utilizzò la leva dei migranti per ottenere gli ottimi dal suo punto di vista accordi col governo italiano, quei 5 miliardi di euro in 20 anni. Perché? Perché usava i flussi migratori come rubinetti, e quindi faceva partire i migranti per mettere sul piatto della bilancia questa emergenza e poi insomma per sedersi al tavolo delle trattative. Flavio Di Giacomo, fra l'altro, come dire, quanto siano strumentalizzati i migranti lo si vedeva nell'era di Gheddafi, proprio perché c'era una fortissima collusione tra i trafficanti di uomini, cioè coloro che organizzano i viaggi verso l'Europa, non è un fenomeno che riguarda solo l'Italia, ma verso l'Europa, e la polizia del mare, e quindi le guardie di frontiera libiche che venivano adeguatamente ricompensate per far partire le barche, no? Esattamente, tant'è che non appena è stato firmato il trattato di Tollo Libica sono terminati gli sbarchi, perché evidentemente c'era la possibilità di farli terminare e di bloccare il lavoro dei trafficanti, quindi dimostra chiaramente che c'era una collusione molto profonda, insomma, da questo punto di vista. Invece negli ultimi tempi, come diceva Gabriele, appunto, ci sono state persone che sono state forzate addirittura a partire, altre persone che pur non avendo una gran cifra in tasca, i trafficanti, soprattutto milizie pro Gheddafi, hanno accettato qualsiasi cifra per di farli partire. Insomma, è una situazione molto, molto particolare quella che stiamo assistendo adesso, l'altra questione che io vorrei sollevare è: vediamo che succede a tutti questi migranti che arrivati in Italia hanno chiesto asilo, che secondo i diritti internazionali però non tutti hanno diritto all'asilo, perché molti vengono da paesi, sono originari anzi, dei paesi cosiddetti sicuri, sì. però è anche vero che ci sono persone che, per cui appunto la Libia erano paesi di transito e magari erano in Libia da 1 o 2 mesi, persone che invece vivono in Libia da 20 anni e che quindi si trovano completamente sradicate, il loro paese d'origine non è per nulla, però ecco, se hanno il diritto internazionale non certo. possono ricevere asilo, quindi bisognerebbe anche pensare magari a un qualche tipo di protezione particolare, speciale per queste persone, protezione che d'altronde è stata data per i tunisini e che sarebbe assurdo che non venga dato invece a persone che veramente stanno vivendo una tragedia. Facciamo un esempio per essere ancora più chiari, un ragazzo ghanese che ha fatto il viaggio, ha attraversato mezzo continente africano, è arrivato in Libia, questo magari l'ha fatto 10 anni fa, si è stabilito nei sobborghi di Tripoli, ha fatto il carpentiere per anni, per 10 anni, 15 anni, a un certo punto è scoppiata la guerra, si è detto me ne vado, cerco di arrivare in Europa, in Italia, e lui si trova in quanto ghanese a non poter godere di alcuna protezione internazionale, perché la commissione che potrebbe esaminare la sua domanda gli potrebbe benissimo dire beh insomma il Ghana non è che rischi chissà che, non c'è guerra, quindi, mentre lui in realtà viene da un paese libico, cioè ormai non ha più, dal paese libico non ha più alcun rapporto col suo paese origine, col Ghana, lui ha tutti gli effetti libico e quindi questo potrebbe creare in qualche modo, come dire, una distonia rispetto a quello che è il diritto internazionale. Questo è il punto, Flavio. Esatto, il discorso è questo, che non gli si può dare il titolo di rifugiato o dargli una protezione internazionale o sussidiario umanitario proprio perché il paese di origine è un paese sicuro. Di Giacomo, quindi è un po' sì. Non direi un vuoto normativo, non è prevista insomma questa fattispecie, però chiaramente dal punto di vista pratico per queste persone è una vera difficoltà. Certo. Come stai valutando la situazione a Tripoli, dove comunque c'è anche lì, ancora una volta, una componente di africani, di migranti subsahariani piuttosto elevata? Guarda, io adesso ho avuto una notizia da Tripoli, dal nostro quartier generale di Ginevra, una nave che dell'OIM si sta dirigendo a Tripoli per evacuare i migranti che si trovano nella capitale libica. Sì. Per ora questa nave dovrebbe essere in grado di evacuare 300 persone, quindi noi abbiamo avuto richieste, sappiamo che ci sono richieste presso le ambasciate di migranti che vogliono appunto scappare da Tripoli. Questa nave sta arrivando nella città, soltanto che stamattina si pensava che potesse attraccare al porto, pare che il porto però non sia anzi nelle mani dei ribelli come ci avevano detto, e quindi la nave in questo momento è a largo perché non può, per questioni di sicurezza, avvicinarsi alla capitale. Però sappiamo che ci sono molti migranti che sono in attesa di essere evacuati, che vorrebbero fuggire dalla capitale. La situazione a Tripoli, ve la stiamo raccontando anche in questa puntata, è piuttosto confusa. Insomma, i ribelli ieri avevano cantato vittoria forse un po' troppo presto, poi la doccia fredda, questa apparizione di Saif al-Islam questa notte davanti alle telecamere di Al Jazeera ha raggelato un po' tutto, ma noi oggi ci stiamo concentrando soprattutto su come e quanto i flussi migratori cambino a seconda di questa crisi libica e di quella che è la più generale rivolta nel Maghreb. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. Stiamo ragionando su come e quanto i flussi migratori, i processi di immigrazione stiano impattando dopo le rivolte nel Maghreb che da febbraio stanno infiammando il Nord Africa e la guerra in Libia. C'è un aspetto fondamentale che forse poche volte viene raccontato, ma che è fondamentale e che vorrei sottoporvi, che è quello dell'immigrazione interna africana. L'Africa è un continente molto dinamico dal punto di vista della migrazione. Quella interregionale è la forma più comune di questo fenomeno. Algeria, Burkina Faso, Mali, Marocco e Nigeria sono i più importanti paesi da cui si originano questi movimenti, diretti soprattutto in Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria e Sudafrica. Il numero totale di immigrati nella parte est e centrale del continente è rimasto tendenzialmente invariato, circa 6,7 milioni di persone nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. La principale causa degli spostamenti continua ad essere il trasferimento forzato dovuto alle difficili condizioni di alcune regioni quali l'Etiopia e il Kenya, flagellate da conflitti interni, degradazione ambientale e disastri naturali. La situazione ha portato alla nascita di alcune comunità regionali allo scopo di promuovere iniziative che mirano all'integrazione e a gestire gli spostamenti attraverso il paese, quali The Common Market for Eastern and Southern Africa e The East Africa Community. Per quanto riguarda il Nord Africa, gli ultimi 5 anni hanno visto un incremento del flusso migratorio. Le stime contano circa 1,8 milioni di persone giunte in questi luoghi dalla Somalia, dal Kenya e dall'Uganda. Il dato testimonia un'inversione della tendenza dei decenni passati, in cui la regione rappresentava invece un punto di partenza. Nel 2010 il numero di coloro che si sono spostati nel sud del continente è arrivato alla cifra di 2,2 milioni di persone. Questa zona ha visto un forte incremento del fenomeno, dovuto al forte sviluppo economico della regione e alle difficili situazioni dei paesi confinanti come lo Zimbabwe. Nel 2005 la Southern Africa Development Community ha elaborato un protocollo per facilitare gli spostamenti e l'integrazione. 9 regioni hanno già aderito al progetto. Questo è il quadro di un fenomeno che la maggior parte delle volte non viene raccontato, ma viene ignorato. La gente si muove, non c'è niente da fare, è una tendenza secolare, millenaria, l'uomo per sua natura non è solo sedentario ma è anche nomade, quindi si sposta in cerca di opportunità. È un fenomeno che sicuramente va gestito, ma altrettanto sicuramente l'arroccarsi su posizioni di difesa, erigere muri come l'Europa ha più di una volta fatto, sicuramente non risolve il problema. Io lo dico tante volte, chiudere le frontiere, porre dei veti, chiudere delle porte significa che i trafficanti di uomini cercheranno un'altra rotta, un altro tragitto, gli uomini arriveranno lo stesso, i migranti partiranno lo stesso, semplicemente il viaggio costerà di più e morirà più gente. Quindi sicuramente ci vuole una risposta europea, ma ci vuole una risposta politica che sia lungimirante, e sicuramente non è chiudere le frontiere con le quali si risolve un problema. Ripeto, c'è una massa gigantesca di persone che si vuole spostare e si sposterà, che noi lo si voglia o meno. C'è ancora un messaggio di un ascoltatore che dice, insomma, i giovani tunisini che non hanno trovato lavoro in Italia e in Europa hanno fatto un giro turistico a spese del nostro Stato. Gabriele Grande, è una provocazione questa o neanche tanto? No, è una falsità, nel senso che lo Stato, gli unici soldi che ha speso lo Stato sono quelli che sono stati spesi per recludere queste persone e detenerle nei centri di identificazione ed espulsione 3 mesi. È vero che lo Stato paga dai 50 ai 60 euro al giorno, ma quei soldi non vanno alle persone che sono rinchiuse nei centri di identificazione ed espulsione, ma vanno appunto agli enti gestori, quindi alla Croce Rossa, alle Misericordie o quali altre cooperative li gestiscono, più le spese poi della polizia e delle forze dell'ordine che quei centri presidiano. Un bel giorno, 5 aprile, Maroni ha fatto un decreto per cui si dava un permesso umanitario a tutti quanti i tunisini, e i tunisini a proprie spese se ne sono andati e hanno raggiunto i loro familiari, perché di nuovo noi siamo talmente abituati a disumanizzare la gente che viene da certi paesi del mondo che ci dimentichiamo che ognuno ha dei legami, in particolare i tunisini che sono arrivati in Italia, che sono partiti soprattutto dalla costa sud della Tunisia, quindi Gerba, Zarzis, Tataouine, città che hanno legami storici con la Francia, quindi hanno comunità emigrate da quelle città a Parigi, molto forti, molto ben inserite in Francia. Per cui la dinamica era che i ragazzi uscivano dai centri, andavano a Western Union e ritiravano 500 o 1000 euro che gli spediva il papà piuttosto che lo zio, il fratello o il cugino da Parigi, e con quei soldi salivano sul treno. Abbiamo visto le scene a Bari piuttosto sì. che a Torino o a Milano, di tunisini in fila in biglietteria per comprarsi il biglietto ed andare con il treno in Francia a raggiungere i propri perché parenti. Ripeto, è un fenomeno che riguarda l'intera Europa, soprattutto per alcune fasce di popolazione, penso agli Eritrei, ai Somali, il nord Europa, dove insomma lì lo status di diritto, lo status di asilo politico, insomma, ha tutt'altre fattezze rispetto a quello italiano. Grazie Gabriele De Grande, giornalista, scrittore, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. E nel tratteggiare quelle che sono le dinamiche dei flussi e delle rotte migratorie dopo la rivolta nel Maghreb, dopo e durante la guerra libica, sicuramente un fattore da tenere presente, dicevo, è quello europeo sicuramente, ma anche quello italiano. Quanto Europa e Italia hanno bisogno dell'immigrazione? Non sto pensando semplicemente ai rifugiati, a quelli che chiederanno protezione internazionale, penso a gente che andrà a lavorare, penso alle pensioni da pagare, penso a una popolazione italiana in particolare, ma anche europea, che è sempre più vecchia. Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professor Ambrosini, lei ha scritto svariati testi, tra cui uno, il cui titolo mi sembra uno slogan estremamente efficace, perché recita «Utili invasori». Spieghiamolo meglio. Sì, con questa immagine, questo simbolo, se vogliamo usare il termine colto, ho voluto esprimere la contraddizione delle società riceventi, società europee in modo particolare, forse l'Italia in maniera un po' più enfatica e drammatica, essendo arrivata tardi alla condizione di paese di immigrazione. Paesi che si difendono, come voi avete osservato, paesi che chiudono, però che hanno bisogno di forza lavoro. Questa contraddizione è quella che regna ormai da anni nelle politiche dei paesi riceventi. Il nostro caso è emblematico. L'Italia, incapace di accogliere preventivamente, di chiarire i propri fabbisogni di forza lavoro immigrata, ha realizzato 6 sanatorie in 22 anni. La maggior parte degli immigrati che lavorano oggi in Italia sono passati attraverso una sanatoria. Mi sembra che sia l'ammissione che il mercato, le famiglie, i datori di lavoro hanno espresso fabbisogni di manodopera che hanno ecceduto largamente le politiche degli ingressi. E ancora una volta qua emerge come, appunto per quello che sta dicendo lei, il tema dell'immigrazione sia così facilmente strumentalizzabile, diventi così tanto una leva politica. Le opportunità connesse con l'immigrazione, opportunità di lavoro, il dossier della Caritas, l'ultimo, cita una stima di Unioncamere per il 2008 e sostiene che gli immigrati contribuiscono alla produzione del PIL per l'11,1%, che non è da poco, professore. Certo, i lavoratori immigrati, secondo dati che sono sempre un po' difficili da controllare e da stimare correttamente, ma secondo l'INAIL i lavoratori iscritti nati all'estero sono circa 3 milioni. C'è poi il problema delle colf e assistenti domiciliari che non sono sempre iscritte in questi registri, c'è il problema naturalmente dell'immigrazione irregolare, c'è il problema dei lavoratori temporanei, ma dobbiamo pensare che oggi ci sono in Italia 5,3 milioni di immigrati, compreso circa 500.000 di irregolari, di questi appunto probabilmente 3 milioni in modo regolare, un altro 500.000 in modo meno regolare partecipano al mercato del lavoro. Contrariamente a quello che molti pensano, gli immigrati che lavorano versano regolari contributi che vengono prelevati dal datore di lavoro, come per i lavoratori italiani, nella stessa maniera. Ma siccome gli immigrati sono gente mediamente giovane, arrivano qui dopo aver completato gli studi e non hanno ancora bisogno della pensione e in maniera limitata di cure mediche, per ragioni banalmente demografiche, anagrafiche, è più quello che versano di quello che ricevono. Quindi di solito gli immigrati lavoratori, soprattutto gli immigrati di queste prime leve, sono un buon affare per gli stati che li ricevono. E questo insomma è un altro dei concetti che, grazie a lei, professor Ambrosini, abbiamo messo in luce in questa puntata dedicata ai flussi migratori dopo la crisi nel Maghreb. Grazie, buona giornata, buon lavoro, professore. Grazie a voi, buona giornata. Velocissimi, vi do un flash dalla Libia perché c'è un'agenzia, Downing Street della Gran Bretagna non ha escluso l'invio di peacekeeper britannici in Libia se il paese dovesse precipitare nel caos una volta caduto il regime di Muammar Gheddafi, e insomma questa agenzia, che se confermata insomma esprimerebbe tutte le preoccupazioni di Downing Street per l'evolversi della crisi libica. Vediamo, abbiamo il tempo per i WhatsApp, sì, diamo un'occhiata in giro per il mondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E allora vi porto in Turchia, anzi al confine turco-iracheno. Secondo un comunicato del Comando Generale delle Forze Armate Turche, le operazioni lanciate nel nord dell'Iraq la scorsa settimana hanno colpito 132 bersagli in 6 giorni di raid aerei, 100 guerriglieri PKK uccisi appunto dall'esercito turco dopo una recrudescenza del conflitto tra appunto l'ala armata del PKK e l'esercito turco. E poi in India, dove si apre uno spiraglio nel confronto, nel braccio di ferro pacifico tra Azhari e il governo indiano, anche se la salute del pacifista gandhiano Anna Azhari, che è all'ottavo giorno di sciopero della fame, di cui vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate in Nessun Luogo è Lontano, insomma lo stato di salute si sta deteriorando, è anziano, Anna Azhari ha 73 anni, potrebbe essere ricoverato d'urgenza nelle prossime 24 o 48 ore, lui sta combattendo, lo ricordiamo, contro la corruzione nel paese indiano. E infine in Israele, dopo l'escalation militare fra i palestinesi di Gaza, fra Hamas e il lancio di razzi e i raid israeliani sulla striscia di Gaza, c'è un periodo di relativa calma, e allora gli indignados israeliani stanno rioccupando le piazze di Tel Aviv. Se ricordate, stanno chiedendo uno stato sociale più efficiente e più fondi anche per gli studi. Nessun Luogo Lontano di oggi finisce qui, non mi resta che ringraziare voi, gentili ascoltatori, per essere rimasti con noi. Riccardo Poli, in redazione, che ha confezionato con me anche quest'oggi il programma, Mauro De Angi, che le ha dato ritmo e musica. Noi ci sentiamo domani, puntuali, 13:15.